Faceva un po' impressione, ieri e l'altro ieri, passare in rassegna i commenti con cui la stampa ha accolto nel complesso la firma dell'accordo tra sindacati e governo con annessa archiviazione dello sciopero generale. Faceva un po' impressione perché una convergenza così larga non capita tutti i giorni di trovarla. Che qual più qual meno tutti i giornali vicini alla Confindustria o al sindacato, governativi di complemento o antigovernativi per vocazione, Corriere della Sera e Stampa, Unità e Sole 24 Ore, Repubblica e Manifesto, concordassero tutti in un giudizio abbastanza positivo ed abbastanza strabiliante. E poi a tanta unanimità di vedute, puntualmente riflessa da commenti e dichiarazioni in diretta e differita di protagonisti e comprimari, a tanta unanimità di vedute corrispondeva un atteggiamento un po' più prudente da parte di coloro in cui il nome d'accordo era stipulato. I cittadini normali, tra virgolette, i lavoratori e i pensionati intervistati o sondati nei vari telegiornali o quelli che venerdì hanno telefonato in gran numero al nostro microfono aperto, sembravano un po' meno disposti all'entusiasmo. È una mia impressione e io per natura sono più avvezzo a cogliere i dissensi che gli assensi, lo ammetto. Ma a me la soddisfazione generale sembrava largamente stemperata non tanto dal timore di essersi fatta rifilare l'ennesima fregatura, ma era soprattutto una grande incertezza sul proprio destino personale e politico. Tutti quei lavoratori che venerdì mattina si affannavano a telefonare al cortese sindacalista della CGIL in onda per sapere che fine avrebbero fatto i loro 15, 20, 25, 30 anni di contributi e si sentivano rispondere che questo appunto era il problema che l'accordo aveva lasciato aperto, nel senso che il capitolo pensioni è stato quasi stralciato dalla finanziaria nella prospettiva che il governo prepari una riforma e il governo la provi, il Parlamento la provi, questo governo e questo Parlamento, a me non sembravano proprio così contenti. Perché un accordo politico, qualsiasi accordo politico, si può vedere su piani diversi, naturalmente. Si può giudicare sulla base dei suoi effetti immediati oppure su quella dei suoi effetti a termine. Senza trascurare l'interessante ipotesi che queste due dimensioni non siano perfettamente omogenee tra di loro. E l'accordo di mercoledì notte, non c'è dubbio, è di quelli che sull'immediato non portano che vantaggi a chi vi stipula. Il che spiega l'insolita ampiezza del consenso che lo ha salutato. Minuzie e promesse a parte, i sindacati hanno incassato il riconoscimento della loro funzione istituzionale, frustrando il tentativo di legiferare in autonomia e senza concertazione con le controparti in materia sociale, che non è poco se pensate che soltanto un giorno prima dell'accordo uno dei quotidiani che lo ha salutato con più entusiasmo scriveva che nei paesi veramente democratici le leggi finanziarie ove si accettano o si respingono così come sono, prendere o lasciare, e la pretesa di discutere nel merito le cifre non è altro che una nostalgia consociativa. Ma anche il governo ha incassato qualcosa. E non soltanto la revoca di uno sciopero praticamente già organizzato e pronto a scattare. Ha incassato sei mesi di tempo per organizzare la sua riforma delle pensioni e l'assenso al blocco delle pensioni d'anzianità per quei sei mesi. E in sei mesi si sa di cose ne possono capitare parecchie. Voi ve lo ricordate meno di due settimane fa com'era ridotto il capo del governo all'indomani di un evento che era fatto formale e per di più era atteso da mesi, come l'invio di garanzia al cittadino Berlusconi. Ricordate, 10 giorni fa sembrava di essere sull'orlo del ribaltone. L'opposizione non era più attiva di quanto non sia adesso, ma nessuno ci sembrava sentirne il bisogno. C'era Bossi che spiegava a tutti che di questa maggioranza non se ne poteva davvero più, c'era la Pivetti che sembrava partita per le grandi manovre, Scognamiglio che andava in televisione a fare le prove da leader. Persino Fini sembrava vagamente seccato con un presidente del Consiglio così poco presentabile. Berlusconi faceva persino pena. Biascicava penose proteste di innocenza, accompagnandole da macabri giuramenti, e Scalfaro si rifiutava di riceverlo al Quirinale, e una quantità di consiglieri interessati lo esortavano per il suo stesso bene a dimettersi subito per essere più libero di difendersi dalle accuse che i magistrati stavano accumulando sulla sua testa. Adesso sarà un caso, ma tira tutta un'altra aria. Borrelli è nelle canne fino agli occhi. Alla procura di Milano resta il dubbio piacere di interrogare il suo maggiore inquisito un giorno o l'altro, non subito, ma in cambio quei giudici si sono visti sfilare destramente di mano la possibilità di processarlo. che non è proprio così poco. Il Presidente della Repubblica non è più chiuso nel suo palazzo, ma va in giro a bacchettare con zelo i magistrati che parlano troppo e discetta liberamente dei pericoli di un uso eccessivo delle comunicazioni giudiziarie. Bossi chissà dov'è, deve essere partito per il ponte di Sant'Ambrogio. Scognamiglio da Pivetti sono tornati precipitosamente nei ranghi e il più illustre degli inquisiti, invece di mettere a repentaglio la testa delle creature innocenti con giuramenti azzardati, può dichiarare in pubblico che l'idea stessa di processarlo è una provocazione grave. Non sarà tutto effetto dell'accordo coi sindacati, naturalmente, ma non c'è dubbio che quell'accordo a Berlusconi è servito. Se soltanto una settimana fa era una specie di presidente a termine, sulle cui prospettive incombeva lo spettro minaccioso della verifica subito dopo la finanziaria, adesso è un presidente delegato da un importante accordo nazionale ad elaborare e presentare in Parlamento un'importante riforma da cui dipende il destino delle generazioni future. A quella verifica, alla prospettiva di mandarlo a casa in anticipo, al governo del Presidente, al governo delle regole, al crollo di Forza Italia, alla conversione democratica di Bossi, agli effetti benefici dell'accordo tra popolari e progressisti, a tutte quelle cose lì evidentemente i sindacati non hanno creduto più di quanto non avesse mai creduto lui.